Cari amici di Radio Big World, il sottoscritto Pietro Pancamo torna a farvi compagnia ed oggi vi presenta tre bravissime poetesse. Mi riferisco a Chiara Olivero, Angela Lombardozzi e Cristina Onofri, che ormai da qualche tempo hanno deciso di fare causa comune e di fondare quindi il lyric group Vuoto 3. Ed è proprio con questo nome, Vuoto 3 Lyric Group, che si esibiscono a suon di reading letterari fra Milano e dintorni. Ma bando ai preamboli adesso e ascoltiamole presentarsi. Mi chiamo Chiara Olivero e sono nata a Casale Monferrato, ma da molti anni vivo a Milano. Ho collaborato come redattrice con diversi studi editoriali e case editrici. Alcune poesie sono state pubblicate su antologie in formato cartaceo e ebook, ma anche su siti e blog letterari, tra cui Interno Poesia, e tradotte in spagnolo dal Centro Culturale Tina Modotti. Geometria della Notte, edita da Punto Capo Editrice nel 2014, è la mia prima raccolta di poesie. Scrivo da quando sono bambina. Ho iniziato con le favole, per poi scoprire nell'adolescenza la scrittura in versi, amore che mi ha accompagnato fino al periodo universitario. Ho poi accantonato per anni la poesia, per riscoprirla con più intensità solo qualche anno fa, iscrivendomi a un corso di scrittura tenuto da Roberto Agostini, giornalista e poeta. La poesia per me è espressione di libertà, ma anche un'urgenza, una necessità. Scrivere è un'esperienza necessaria ma faticosa, a tratti dolorosa, ma anche di grande gioia. Scrivere poesie significa scavare in profondità, ma anche sentirsi parte di qualcosa di più grande. Interessata alla sperimentazione e al connubio tra poesia e altre arti, da qualche anno collaboro con underground distribuzioni alternative, esibendomi in alcuni locali e circoli arci milanesi, con performance poetiche e letture. Inizialmente da sola, ora anche con Vuoto 3, il gruppo poetico formatosi in seguito alla sintonia artistica con Angela Lombardozzi e Cristina Onofri, conosciute al corso di scrittura. Con Vuoto 3 scriviamo poesia a tre voci, spesso accompagnate da musica e video, come fosse un flusso di coscienza dialogato, seguendo il metodo della scrittura automatica utilizzata dai surrealisti. Le nostre voci sono come tre coscienze affacciate sul vuoto. Malgrado siano molto diverse tra loro, si amalgamano con naturalezza e spontaneità, quasi come fossimo un'unica persona. Una poesia firmata a Vuoto 3, pensata come una canzone, è stata pubblicata sull'antologia Rabbia Maneggiare con Cura, edita da Underground Distribuzioni Alternative. Appassionata di musica, da qualche mese collaboro con i miei versi anche con il gruppo rock Negromanti. Allora, ciao a tutti, io sono Angela Lombardozzi, sono nata a Roma e cresciuta a Tivoli, in collina, tra gli ulivi. Poi un giorno ho riempito una valigia e caricato un Ficus Benjamin su una utilitaria rossa e sono approdata a Milano, dove tuttora vivo. E ho iniziato, appena arrivata a Milano, ho iniziato a lavorare nella redazione della Ubu Libri e del Patalogo. E ho anche collaborato di tanto in tanto con altre case editrici. Ora non lavoro più nell'editoria, ma la passione per la letteratura, ma non solo, per il teatro, per il canto e soprattutto per la poesia mi ha portato ad esplorare con il tempo queste arti. Ho frequentato la scuola di scrittura e lettura di Roberto Agostini di Milano e ho partecipato con poesie e racconti pubblicati in alcune antologie in formato ebook. Poi alcune mie poesie sono state scelte e incluse nell'antologia Nel nome di Alda dell'Accademia dei Bronzi, edite da Ursini Editore. E nel secondo repertorio anche di arte e poesia. E di tanto in tanto scrivo anche haiku e sono apparsi alcuni di loro su una rivista, la rivista ufficiale dell'Associazione Italiana Haiku, la AGI in Italia. Sono, come dicevo, anche appassionata di canto ho partecipato ad alcuni musical di gruppi spontanei e fatto parte di un coro gospel. E collaboro come autrice di testi musicali con la musicista Consuelo Ursinger. Abbiamo appena registrato un singolo che si intitola Pelle e Anima. Pelle e Anima è un mio testo e Consuelo Ursinger invece ha scritto la musica. Da un punto di vista poetico, l'ultima realizzazione è quella con il collettivo Underground Distribuzioni Alternative. Ho partecipato sia singolarmente che con il gruppo Vuoto 3. Il libro è Rabbia, maneggiare con cura. Dicevo che ho partecipato sia singolarmente con le mie due poesie e anche con Vuoto 3. Abbiamo scritto dei versi poetici pensandoli per la musica. Quindi abbiamo cercato di pensare alla rabbia in modo più leggero e musicale. Proprio perché il tema comunque era un tema che ci ha inquietato per diverse settimane. Abbiamo voluto dargli una certa musicalità e farlo affiorare verso l'esterno, con dei versi che fossero più ritmati, più accessibili, e meno pesanti. E il gruppo poetico è composto da me, da Chiara Olivero e Cristina Onofri, e questo gruppo ci consente di esprimere in coro le nostre personalità in modo molto diretto, perché è molto semplice scrivere in autonomia, diciamo, per un poeta è importante. L'isolamento, nel senso che si rapporta col suo mondo esterno, che poi fa risuonare con l'esterno, ma in maniera molto individuale. E invece con il gruppo poetico siamo in grado di comunicare in versi, quindi di parlare in versi. Fare in modo che la poesia risuoni con l'altro e che l'altro possa rispondere a questa vibrazione. La particolarità è che appunto dialoghiamo in versi e poi durante le performance il nostro coro di voci è accompagnato da una base musicale e da video che realizziamo noi. Quindi non mi resta che venirci a vedere prima possibile. Ciao a tutti, mi chiamo Cristina Onofri, sono il terzo elemento del gruppo Vuoto 3. Anch'io scrivo fin da quando ero bambina, ho iniziato a scrivere racconti e poi quando ho conosciuto il surrealismo, da ragazza ho studiato a Brera. E mi sono appassionata al surrealismo e ho iniziato a scrivere ispirandomi un po' alla loro scrittura automatica e ho scoperto appunto che la scrittura ci trasporta in uno stato di coscienza diverso, come anche la pittura, perché io infatti sono a breve, ho studiato pittura e dipingo tuttora, oltre che fare video, ho lavorato per anni in televisione come montatrice, regista. E comunque la scrittura e in particolare la poesia sono quasi degli stati alterati di coscienza e quando si è in questi stati si prova una grande felicità. Io provo questo quando scrivo e scrivo per questo motivo e quindi per me la scrittura è anche molto terapeutica. E in più il scrivere in gruppo è un'esperienza particolare perché si va oltre se stessi, si raggiunge un livello diverso, si è quasi un'entità unica, come hanno detto anche Chiara ed Angela. Va bene, a questo punto venite, come dice Angela, venite, non vi resta che venire a sentirci, a vederci. Grazie. Ora che sappiamo tutto sulle nostre ospiti, perché non ascoltare anche le loro belle poesie? La visione ai confini dell'io. Ho visto due soli, era tutto vero. Un sole, compatto e quasi impossibile da fissare. L'altro, riflesso, più piccolo, evanescente. È arrivata una nuvola a chiudere tutto, la visione di un secondo. La gola mi ha parlato di un miracolo. Io ci credo ai miracoli, a quelle visioni di quando il corpo diventa occhio grande con pupilla di cuore. Siamo dentro l'eterno, attraversati. Dovremmo farne memoria. Mi libererò di questa malinconia che libra nell'aria evanescente di città. Tu sei solo un'immagine allo specchio che riflette nei pensieri di un corpo che non è il mio. Tutte le ombre della notte fuggono da noi, che attraverso la periferia addormentata viaggiamo senza rumore. È un viaggio sotterraneo, nelle viscere dei nostri errori. Nascosti a noi stessi ci trasformiamo. È un tormento non vedere la luce. Chiudendo gli occhi potremo essere presenti. Sconfinata è arrivata la notte solitaria. Afferra e attraversa con la sua grande ombra. Di qua tutto è possibile. Persino la memoria di te diventa presenza. Stringimi le mani, siamo stati terra e mare. Non è forse il sogno una scheggia di luce che attraversa le nostre ombre rendendole vive? Energia che solleva i nostri corpi da terra e ci avvicina al cielo. Posso smettere di sognare quando voglio. Finalmente posso sollevare il capo, abbandonare come un vestito vecchio da qualche parte la paura di perdere. Ho visto la tua terra, in sogno, prima che tu nascessi, prima di noi, un fiume immenso, un sorso d'oblio, luce che trasfigura. Camminiamo a piedi nudi, sulla terra nuda. Siamo nudi, senza segreti, senza pareti tra noi, avvolti da un velo di malinconia. Nelle mani ad offrire un fiore di loto. Le foglie non scendono a terra, ma in ascensione luminosa a rincorrere le nuvole. Vuoti d'aria, di memoria, persi nel vento. Posso smettere di sognare quando voglio. Ci piace tornare bambini, immutabili creature nel tempo. Il ruscello scorre così come nel fosso, anche nelle nostre mani, e il corpo rigenerato torna piccolo. Danza una musica sempre nuova, ma sempre la stessa. Le stagioni lasciano il segno come pepite d'argento, orme immancabili. Non possiamo allontanarci dall'origine, una resurrezione bianca che attraversa la neve. Le ombre della sera sorseggiano whisky nel bar della memoria, annerano la luce scomparsa. Con gli occhi socchiusi non posso vedere che ombre, mia madre e mio padre. Un ragazzo gentile mi dice, sei ai confini dell'io. Più lunghe, più corte, cambiano volto, anche il mio. Immagine nera, annegata in un bicchiere di nostalgia. Poi le ombre mi lasciano e io resto solo un pensiero sognato, restituito alla notte, o forse mai nato. Posso smettere di sognare quando voglio. Posso smettere di sognare quando voglio. Posso smettere di sognare quando voglio. Posso smettere di sognare quando voglio. Posso smettere di sognare quando voglio. Possiamo smettere di sognare. Oltre la rabbia di vuoto 3, da rabbia maneggiare con cura, del collettivo Underground Distribuzioni Alternative. Gelida sopra le guance poggia l'aria, buie ore del primo mattino. Un taxi corre sulle strade deserte della città, avvolta negli ultimi umori della notte. Una moto scivolata sull'umido pavé. Un ragazzo porta le mani alla testa, in un gesto contratto, disperato. Sotto il portico di una banca i clochard, avvolti in plaid, stinti e corti, rincorrono i poveri brandelli etilici dei sogni, dimenticando la lastra di marmo che li accoglie. La donna siede sul sedile posteriore, ha chiesto di essere portata in stazione. Ha l'aria stanca, ma tranquilla. Deve aver corso. Ciocche scompigliate tra le mani, fatica dell'addio, tra i vapori luce bianca, spariglia. Hai dubbi che non passano, paure che riflettono le loro verità, hai sentimenti che vacillano, rivelando goccia a goccia la loro identità, alle parole che incoraggiano e risollevano l'anima dalle banalità. E tutto corre, fugge via. Attimi indistinti, senza fantasia, croci sulla strada e alla televisione. Si può salvare il mondo con una semplice canzone? Ai sogni accantonati, alle notti senza stelle, ai vuoti di realtà, al muro tra di noi, specchi opachi di questa società. E tutto scorre, fugge via. La pioggia cade, cade sopra gli occhi. Vorrei trovare un modo per salvarci. Muro invalicabile e gabbia degli orrori, la scatola perfetta di tutti i nostri errori. Una rabbia sotterranea si insinua tra di noi, spegne i desideri, accende la paura. Tutto sembra correre senza fantasia. Note intermittenti di monotonia. Voci confuse in radio e dentro i bar. Vorrei poter salvarci dalla normalità. Poesia di Chiara Olivero. La prima poesia che leggerò è tratta da Rabbia maneggiare con cura, l'antologia edita da Underground Distribuzioni Alternative. Si intitola Fenice e la dedico a tutte le donne. Dove sono finite le notti felici in cui cercavi i miei piedi e il mio cuore? Accarezzando i tuoi sogni io ti guardavo sognare. In un porto sicuro ormeggiavi la nave, portando in dono acqua di mare. E ciò che resta di un amore, sgualcito, strappato, calpestato, gettato come un rifiuto. Tu rifiuti il mio essere donna, mi tocchi lasciando indelebili segni. La tua gelosia lentamente fiorisce nel mio ventre, mettendo radici profonde. Avvolgono i rami stretti, alla gola il respiro si allenta, sento che sto per morire. Non riesco a gridare il dolore che ho dentro, implode nelle viscere come linfa vitale, pulsa la rabbia, sono la gabbia di me stessa, legata a una catena che non si spezza. Tu, dimmi, questo lo chiami amore? Non sono che un giocattolo tra le tue mani. Come un oggetto mi sposti. Non posso più stare ferma a guardare mentre mi fai del male. La solitudine, no, non mi ucciderà. E ora una poesia tratta da la mia prima raccolta, Geometria della notte. Si intitola Il rododendro. Gocciolano dai nudi occhi, tracce di sentieri sconosciuti, fantasie di sconfinati spazi e infiniti silenzi, sciacquati nel colore del mare. Riemergono sbiaditi nel calore del giorno i sogni interrotti, i pianti ormai asciutti, le piante annaffiate nel tuo giardino d'inverno. Era vero oppur veleno il dolce profumo del rododendro. E per finire un'altra poesia tratta da Geometria della notte, si intitola Fuori moda. Oggi mi ami, domani no. Cambi rotta, inseguendo il vento e le stagioni, rincorrendo le mode del momento. Se un giorno tornerai dalle tue peregrinazioni, non mi troverai più. Quando il tartan tornerà di moda, io indosserò il piede pull. Poesie di Angela Lombardozzi. Ora leggo due poesie tratte da Rabbia, maneggiare con cura di Underground, distribuzioni alternative. Delirium. Che sarà della polvere della fossa? Su cui poggia la polvere rossa che imbratta la vista distratta? Violate un destino smontato di un tempo che tempo non è. Tempeste di neve senza neve, stillicidi di vite spremute, premute, spezzate da mani arrossate. Placate la fame, trabocchi la rabbia che bolle, infiotti di assenza. Cercate indulgenza, ascendete lo sguardo d'azzurro dei cieli, che Cloto, Lachesi ed Atropo ritrovino il senso del loro filare. Rabbia inespressa. Eppure, più mangio cibo vegetariano, più il sangue si presenta sul tavolo dell'anima. Lo sogno di notte a fiotti parla di un segreto. Forse è la strana pulsazione di un desiderio mai espresso, la virgola incantata rotta sulla corda vocale, la disillusione di un canto mai intonato, la rosa selvatica strappata al sogno. Così provo a capire cosa insinua, perché anche senza ombrello la lingua resta asciutta nei giorni di pioggia. Ora invece leggo due inediti. A microfono aperto. I limiti si baciano in attesa dell'urto. Tesse la tela il ragno che non vuole l'invadenza dello spazio. Attendi con una quota di sottile ansia questo evento, sapendo che tutto rientrerà nel luogo dove ogni cosa ha avuto origine. L'importante è stare in questo momento, non pensare al forse, al quando, al perché, non ritrarre il dito dalla bocca, che incanta. Persevera nell'attimo, perché ogni cosa che fugge più non è. La goccia lascia il segno nel punto, è la precisione dell'istante. Senza titolo. Nella scapola si inceppa il suono acuto del tuo nome. La meraviglia ripercorre il passo, ma dietro la folata è il sapore di uno schiaffo. Sul cartello la parola amore risuona stravagante e afflitta. Potrà questo dono chiuso proteggere il suo inganno? Attraverso un buio teso, stanca, mi appresterò a rimettere la meraviglia in grembo. Chiara Olivero, Angela Lombardozzi e Cristina Onofri, tre poetesse di grande talento che ringrazio per aver partecipato al mio programma e che, con versi sempre sorretti da una sorprendente capacità introspettiva e talora venati di filosofica ironia, esplorano, come abbiamo sentito, le piccole torture e storture dell'esistenza quotidiana per giungere a verità salvifiche che restituiscano al lettore la serenità o almeno il coraggio di vivere. Noi invece, cari amici di Radio Big World, siamo giunti al termine di questa puntata. Inutile dire che vi saluto con affetto e che vi aspetto il mese prossimo.